Ho letto la biografia di un uomo che, al termine della sua vita, ha testimoniato di non avere nessuna accusa da rivolgere alla propria nazione e di conseguenza verso nessuno. Una testimonianza che, se presa sul serio, è molto particolare, perché sono molto rare le persone, se ce ne sono, che non hanno da addebitare colpe a qualcuno. In effetti, si incolpano i governanti per il loro operato, o anche il solo vicino, dal quale si è ricevuto un torto. Ancora più sorprendente è che questa persona ha vissuto circa 2000 anni fa, quando non c'era la democrazia di oggi, ma vigeva la violenza. Quando non vi erano istituzioni a protezione dei deboli. Il che significa che si avevano tutte le ragioni per avere qualcosa contro qualcuno. Inoltre, è significativo il fatto che questa persona non avesse nessuna accusa da muovere nei confronti dei suoi connazionali. Per me è facile non avere nulla di cui accusare gli eschimesi, sia perché non ne conosco, sia perché non li ho mai visti, né mi sono mai relazionato con loro, ma è molto più facile avere dei conti in sospeso con i miei connazionali con i quali vivo e mi relaziono. Perciò il fatto che questa persona non avesse nulla da imputare ai suoi connazionali è un esempio da prendere in seria considerazione. Infine, per apprezzarne la testimonianza è bene rendere noto che la mancata necessità di attribuire alcunché a qualcuno di questa persona non era rivolta a coloro che gli avevano fatto del bene, ma a quanti gli avevano fatto del male ogni volta possibile. Chi era questo strano personaggio del quale ho letto la biografia, anche se non dettagliata? Era l'ebreo Paolo, un inviato a predicare l'Evangelo ai non ebrei. Il medico Luca, amico dell'Apostolo, scrisse questa testimonianza al termine del forzato viaggio di Paolo a Roma. E quando entrammo a Roma? A Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia. 3 giorni dopo Paolo convocò i notabili fra i giudei e, quando furono riuniti, disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, fui arrestato a Gerusalemme e di là consegnato in mano dei Romani. Dopo avermi interrogato, essi volevano rilasciarmi perché non c'era in me nessuna colpa meritevole di morte. Ma i giudei si opponevano e fui costretto ad appellarmi a Cesare, senza però aver nessuna accusa da portare contro la mia nazione. Per questo motivo dunque vi ho chiamati per vedervi e parlarvi, perché è a motivo della speranza di Israele che sono stretto da questa catena». Atti 28.1620. Mentre Paolo stava parlando, era letteralmente stretto da una catena, cioè era prigioniero, portando ancora le conseguenze dell'odio di certi uomini. Eppure, non aveva nulla da rimproverare al suo popolo. Cosa aveva fatto Paolo per essere considerato oggetto di ostilità? Nulla, ma proprio nulla. In realtà, qualcosa però Paolo aveva fatto perché, come dice il proverbio, neppure un cane muove la coda. Senza motivo. Il torto di Paolo consisteva nell'aver predicato un messaggio che non piaceva né ai farisei né ai sadducei. Chi erano costoro? I farisei erano principalmente scribi, che interpretavano le sacre scritture di Dio secondo leggi orali, da loro ritenute autorevoli quanto quelle scritte. La loro prima preoccupazione nell'interpretare la legge di Dio era applicarla ai variabili casi dei loro giorni, ricorrendo ad argomenti complessi. Ad esempio, un sarto non dovrebbe mettere l'ago nei suoi vestiti il venerdì, per timore che, portandolo con sé, avesse così a trasgredire il riposo del sabato. Erano quelli che noi chiamiamo estremisti. I sadducei erano così chiamati per la loro pretesa di discendere da Sadoc, il sommo sacerdote vissuto durante il regno di Davide e di Salomone. Essi appartenevano ad agiate famiglie aristocratiche, che controllavano la carica del sommo sacerdote. Non credevano all'esistenza degli angeli né alla resurrezione. Erano dei conservatori rigoristi che osservavano la legge contenuta nei libri di Mosè e rigettavano le interpretazioni a essa posteriori, cioè, in altri termini, i comandamenti orali. 2 gruppi religiosi, all'interno dell'ebraismo, tra l'altro, in contrasto fra di loro in merito alla resurrezione. E poiché Paolo insegnava l'incapacità dell'uomo a ottenere la giustificazione davanti a Dio mediante l'osservanza della legge, eppure testimoniava della resurrezione di Gesù. Va da sé che queste due correnti religiose non lo volessero vedere neppure dipinto. Un odio dunque non motivato da eventuali ingiustizie o torti commessi da Paolo, ma causato dalle sue convinzioni religiose non combacianti con quelle di farisei e sadducei. Una situazione questa ancora invariata dopo 2000 anni, e che ci induce a considerare attentamente come sia possibile terminare la propria vita senza nutrire rancore né nessun odio verso alcuno di convinzioni religiose diverse dalle proprie. Soprattutto nel XXI secolo, quando molti mostrano verbalmente una tolleranza religiosa alquanto sospetta, perché poi di fatto queste persone risultano le più intolleranti verso chi non è d'accordo con la loro presunta apertura religiosa. Lo dico anche per esperienza, perché proprio uno di questi non tollerava che io deviassi dai suoi indirizzi religiosi, arrivando al punto di togliermi l'incarico di predicazione e di insegnamento nella chiesa della quale era diventato conduttore da pochi anni. Come è possibile non avere alcunché da accusare a coloro che si comportano in modo ingiusto nei tuoi confronti? Se per qualche malattia dimentichi il passato, allora è possibile. Ma se la tua memoria è ancora funzionante, se l'ingiustizia è ancora presente nella tua mente, e per di più, ne porti ancora oggi le conseguenze, com'è possibile non nutrire alcun desiderio di rivalsa? È facile insegnare che occorre perdonare, ma perdonare non significa dimenticare. L'apostolo Paolo, prima di morire, si ricordava ancora del male subito da parte di Alessandro, il ramaio. Una soluzione esiste per terminare la propria esistenza, senza imputare cosa alcuna a nessuno. Per prima cosa, occorre vivere nella consapevolezza giornaliera che la nostra vita si svolge sotto lo sguardo della sovranità di Dio e che nulla, ma proprio niente, sfugge al volere di Dio. Parlare della volontà di Dio, quando si tratta l'argomento dell'ingiustizia, è molto pericoloso. Sembra infatti che Dio voglia il male e la sofferenza, quando la Bibbia afferma senza ombra di dubbio che Dio è giusto e santo e la sua volontà è perfetta. Un interrogativo che può essere risolto osservando il principio della complementarietà, un concetto introdotto e sviluppato nel 1927 dal danese Niels Bohr, 1885-1962, che ricevette il premio Nobel nel 1922. Il pensiero complementare insegna che due, tre o più aspetti di un fenomeno possono essere osservati e descritti soltanto indipendentemente l'uno dall'altro, sebbene i singoli risultati e le singole affermazioni, apparentemente contraddittorie, siano egualmente valide. In definitiva, la complementarietà consiste nel fatto che gli elementi non possono essere considerati simultaneamente, sebbene entrambi possono essere spiegati. Questo modo di pensare si è poi diffuso dalla fisica ad altre scienze naturali e altre aree della vita. Tutto questo non manca di logica, perché le limitazioni umane ci fanno dipendere da spiegazioni complementari. La Chiesa primitiva formulò appositamente i dogmi centrali della fede cristiana in forme complementari, in quanto difendeva verità apparentemente contraddittorie, quali, per esempio, l'amore di Dio e il suo odio. La natura complementare delle verità bibliche può avere un ruolo importante nel risolvere dispute triviali tra credenti, perché tendiamo per natura a porre l'enfasi su un fattore della verità complementare, a discapito dell'altra. Le scritture trattano tali questioni sotto due o più aspetti apparentemente contraddittori, i quali tuttavia non possono essere dissociati l'uno dall'altro, ma possono soltanto essere contemplati singolarmente. Così, la sovranità di Dio e il peccato hanno una spiegazione, solo esaminando separatamente un aspetto per volta, per poi rendersi conto della loro complementarietà o funzionalità reciproca. I fisici hanno scoperto numerosi fenomeni, descrivibili solo con il termine complementari. Alcuni di questi esistono in coppie, altri in terzetti, Un esempio sono i colori complementari, quali il rosso e il verde, che si fondono per dare il bianco. Qualcuno, esaminando il bianco, potrebbe trovarvi il colore rosso, mentre un altro vi potrebbe trovare il colore verde. Due verità che sono apparentemente contraddittorie, perché il bianco non è né rosso né verde, ma si tratta di due colori tanto complementari da formare il bianco, che non si trova né nel rosso né nel verde. Tornando al nostro tema della sovranità di Dio, si può sostenere la possibilità di individuare due volontà di Dio, quella diretta e quella indiretta. La volontà diretta di Dio è che non ci sia dell'ingiustizia, mentre quella indiretta permette che il male compia il suo corso, anche se lui non vuole, ma nello stesso tempo è sua volontà che il male compia il suo corso, perché in questo modo è esaltata la sua giustizia e il suo amore. Se così non fosse, Dio non sarebbe potente e sovrano in questo mondo, ma lo sarebbe il male. Perciò il credente consapevole di queste due verità complementari non può addebitare all'uomo alcuna accusa, perché alla fine è volontà di Dio se lui soffre l'ingiustizia. E se è volontà di Dio che io soffra un certo tipo di ingiustizia, chi sono io da lamentarmi o lanciare accuse? Al massimo potrei lamentarmi o incolpare Dio, ma chi sono io per non accettare i suoi piani e la sua sovranità, quando li ho invece accolti, in merito alla mia salvezza eterna? Se ho accettato che il giusto Gesù Cristo muoia per me ingiusto, perché non devo accettare che un altro ingiusto faccia soffrire me giusto? Inoltre, se Paolo non aveva accuse da rivolgere al suo popolo, aveva tutte le sue ragioni. Non aveva forse fatto soffrire tanti suoi connazionali mandandoli in prigione e condannandoli a morte, solo perché credevano in Gesù? Se avesse accusato i suoi connazionali, i cristiani non avrebbero potuto a loro volta accusare Paolo. E anch'io, non ho forse fatto del male consapevolmente e inconsapevolmente al mio prossimo? Perché dovrei lanciare accuse verso il mio prossimo? Con questa fede, questa visione della vita, conviene quindi non muovere accuse verso qualsiasi essere umano. Con questo non voglio sostenere che tutti siano giustificati, ma per quanto sta in me, lascio a Dio il compito del giudizio condanna, perché sono consapevole che io sarò trattato da Gesù Cristo come io tratto gli altri. Se è così, allora ho tutto l'interesse a non attribuire accuse contro nessuno. Febbraio 2012, Ellero.